Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo più volte parlato di pompe di calore, queste macchine che hanno la capacità di sottrarre calore all'ambiente esterno, per quanto freddo, e di sollevarlo, passatemi il termine, a una temperatura più elevata, in modo che possa essere usato per il riscaldamento. Naturalmente, poiché il principio di funzionamento su cui si basano queste macchine è lo stesso del frigorifero, le pompe di calore possono essere usate anche per climatizzare gli ambienti. Sono tutte cose di cui abbiamo parlato. Chi segue Mr. Kilowatt sa anche un'altra cosa, che però vale la pena di ricordare, ovvero che le pompe di calore sono tanto più efficienti quanto minore è il dislivello di temperatura tra l'esterno, questa fonte di calore esterna, e l'interno. Un buon paragone ce lo fornisce una pompa dell'acqua: più è alto il dislivello, più si deve sollevare in alto l'acqua, più il sistema è inefficiente o più energia ci vuole per farlo funzionare. Ecco perché le pompe di calore sono molto più efficienti se possono, per così dire, succhiare calore non dall'aria, la cui temperatura varia molto durante l'anno, ma da una sorgente di calore a una temperatura più mite o che rimane più costante durante l'anno, come per esempio il terreno o l'acqua di una falda. Il costo però in questi casi, capite bene, schizza subito verso l'alto, perché si rende necessaria un'opera non banale. Di solito serve perlomeno una perforazione abbastanza impegnativa che incide molto dal punto di vista economico. Come comportarsi allora? Quando scegliere un sistema e quando un altro? Ed esistono, ci domanderemo questa sera, diciamo così, delle scorciatoie? Ne parliamo con il professor Nicolò Aste, docente di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. Buonasera Aste! Buonasera. Dunque Asta, andiamo subito al punto. Esiste una regola che possiamo applicare più o meno in tutte le situazioni per decidere se è conveniente o meno il geotermico rispetto, per esempio, all'utilizzare le pompe di calore ad aria, che sono un'alternativa più economica? Allora, una regola generale non c'è. Il mio convincimento è che fornire delle regole troppo semplificate possa condurre a fare degli errori. La pompa di calore geotermica ha sicuramente un'ottima valenza se viene utilizzata durante tutto il periodo dell'anno, quindi sia in riscaldamento che in raffrescamento. D'accordo, perché altrimenti che cosa succede? Ma perché si potrebbe, ad esempio, si sono verificati dei casi in cui utilizzando solo la pompa di calore geotermica in modalità di raffrescamento, chiaramente questa trasferisce calore, in questo caso da un edificio al terreno, sì, dopo un po' il terreno comincia a surriscaldarsi, certo, e diminuisce l'efficienza del sistema. E viceversa d'inverno, il terreno viene, a un certo punto si congela e diventa sempre più faticoso estrarre, esatto, calore e così potrei via. Addirittura avere dei danni col terreno, non so, la falda che si congela, il terreno che si solleva, va a intaccare le strutture. Insomma, quindi cose anche non da poco. Bisogna quindi calcolare e considerare con molta attenzione il tipo di terreno in cui si interviene. Ecco, a questo proposito, è vero che può cambiare anche abbastanza improvvisamente il tipo di terreno? A seconda delle caratteristiche litostratigrafiche, sì. Se io costruisco un edificio in una certa zona e ne costruisco uno identico 50-100 metri più in là, si potrebbe verificare un cambiamento, insomma, drastico delle caratteristiche drastico, del terreno. Mi sembrava drastico, no, ma insomma comunque, sì, comunque significativo, significativo, assolutamente significativo delle condizioni del terreno sottostante. E qui a questo punto bisogna considerare che la pompa di calore geotermica può essere, diciamo, alimentata secondo diverse modalità, con delle sonde verticali, con delle sonde orizzontali o addirittura emungendo acqua dalla falda. Dalla falda, quando c'è. Ecco, quindi diciamo che comunque una perizia sul terreno va assolutamente fatta prima di decidere. Ok, non ci sono alternative. Senta, ma c'è la possibilità, insomma, di trovare ogni tanto qualche scorciatoia per ridurre un po' questi costi? Le ripeto. Se ho la disponibilità di acqua di falda, quella è la soluzione consigliabile. D'accordo. Molte volte però questa è una possibilità remota, o perché ci sono dei vincoli, o perché la falda non è sufficientemente vicina. E allora, per ottimizzare i costi, si potrebbero utilizzare altre opere edilizie necessarie per raggiungere la profondità del terreno. Quindi per esempio le fondamenta. Ad esempio le fondamenta. Le dico, la quota limite è un po' questi 3-4 metri. Se io ho un manufatto che raggiunge una profondità superiore ai 3-4 metri rispetto al piano di campagna, Allora può essere molto conveniente, ad esempio, inserire degli scambiatori nella platea di fondazione di un edificio. Quindi, diciamo, se uno pensa a quei grandi buchi che si fanno tipicamente prima di costruire appunto un condominio, un centro commerciale, solito qualcosa di un po' più alto, di due piani, immaginiamo di avere questo buco, che cosa succede? Beh, di solito questo buco viene pavimentato con un massetto di cemento, che è poi la platea di fondazione, e all'interno di questa fondazione io posso inserire degli scambiatori a serpentina che determinano l'attivazione della massa, sia della massa inerziale di tutto questo blocco di cemento, che poi del terreno circostante, in pratica. Quindi anche comunque metropolitane, fognature. In teoria sì, bisogna sempre vedere che cosa si va a servire poi come utenza e quali sono poi i costi tecnici. Più o meno, tornando diciamo al caso un po' più frequente forse delle fondazioni, quali sono le economie possibili? Di quanto si abbattono questi costi? Allora, le dico, il caso, intanto non è un caso molto frequente, perché diciamo che invece è un po' all'avanguardia, perché richiede degli studi molto specialistici, però stanno cominciando a diffondersi. I vantaggi, beh, innanzitutto dal punto di vista autorizzativo, che se io già sono autorizzato a fare le fondazioni, non devo chiedere ulteriori se permessi. Sono affari miei, se dentro ci annego un tubo, insomma. Parole povere, proprio così. Okay. Il secondo vantaggio è proprio il fatto che io uso sia il terreno che la massa della fondazione, e il terzo vantaggio sicuramente è che rispetto ad altri impianti geotermici posso ridurre i costi di un terzo, del 50%. Ah beh, insomma, comunque una cifra significativa. Grazie Nicolò Aste. Grazie a voi. Bene, anche per questa sera è tutto. Appuntamento è a lunedì. Buona serata, buon fine settimana a tutti.